Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Meli. Se immaginate una scena di questo tipo, un ricercatore prende quello che sembra un rettangolino di gomma trasparente, lo taglia in due con una lametta, poi unisce i pezzi e questo torna esattamente come prima. Tendendolo, il rettangolino si allunga ma non si rompe e non si vede alcuna traccia del taglio. Quello che sembra un gioco di prestigio è invece il sorprendente risultato di una ricerca dell'Università Milano Bicocca e dell'Imperial College di Londra, che ha portato a brevettare un materiale autoriparabile, elastico e resistente, biocompatibile e stampabile in 3D, che nasce per essere applicato nell'ambito della medicina rigenerativa ma che potrebbe avere innumerevoli applicazioni. Ne parliamo con Laura Cipolla, che è professoressa associata di chimica organica dell'Università di Milano Bicocca, responsabile insieme a Laura Russo della ricerca per quanto attiene appunto l'Università Bicocca. Buonasera Cipolla. Buonasera a lei. Allora, senta, quello che ho descritto all'inizio lo si vede in un video che documenta il vostro lavoro e che sembra veramente un gioco di prestigio. Allora, parliamo di questo materiale. Lo definite un materiale ibrido, per cominciare. Che cosa vuol dire? Certamente, l'abbiamo chiamato così, l'idea non è chiaramente nostra, vengono definiti materiali ibridi tutti quei materiali che hanno una componente inorganica, e nel nostro caso abbiamo utilizzato una componente vetrosa, perfettamente integrata con una componente organica, e noi in questo caso abbiamo scelto un polimero che assomigliasse come comportamento elastico alle plastiche che spesso utilizziamo quotidianamente. Ecco, perché questo mix? Che cosa volevate ottenere? L'idea era di base, era quella di mimare il più vicino possibile la struttura della cartilagine umana, che è una struttura naturale assolutamente resistente da un punto di vista meccanico, ma che ha un comportamento elastico notevole. Quindi volevamo cercare di mescolare le proprietà del vetro e della componente organica per arrivare a un materiale che avesse le proprietà della cartilagine umana. Ecco, ma come fa ad autoripararsi? Questa è la cosa veramente incredibile di questo vostro materiale. Stiamo ancora studiando a fondo le caratteristiche autoriparanti del materiale. Quello che ipotizziamo è che ci siano delle interazioni tra le molecole che costituiscono il materiale stesso, che lo portano a ripararsi nel giro di pochissimo tempo. Ecco, perché in realtà non vi aspettavate questa proprietà. Questa è una cosa sorprendente, no? Assolutamente no. Il materiale è stato elaborato e pensato a tavolino sulla sua composizione chimica proprio per andare a cercare proprietà meccaniche ed elastiche contemporaneamente. Quello che non ci eravamo aspettati dalla progettazione del materiale erano le sue capacità autoriparanti, quindi siamo stati sorpresi anche noi dal risultato, ovviamente affascinante. Affascinante, e lasciatemi dire insomma che apre una quantità di possibilità strepitose. Insomma, sui materiali autoriparanti ci sono film, libri di fantascienza, insomma, interi. Allora, partiamo appunto con le applicazioni. Intanto la medicina rigenerativa, qui parliamo per cominciare di ricostruire proprio le cartilagini. Oggi non ci sono alternative da questo punto di vista. Al momento la ricostruzione del tessuto cartilagineo e osteocartilagineo è particolarmente complessa, e tutto questo è proprio dovuto alle proprietà peculiari della cartilagine. Il fatto di essere arrivati a un materiale che rassomigli da vicino alle caratteristiche meccaniche ed elastiche della cartilagine sicuramente fa sperare che possa essere un materiale adeguato alla cura delle patologie che coinvolgono questo tessuto del nostro organismo. Ecco, però non domani perché siamo all'inizio, no, qui. Assolutamente non domani, chiaramente bisogna arrivare a delle prove più dettagliate, degli studi più dettagliati, e poi c'è tutto l'iter delle prove precliniche prima di poter arrivare. Quindi diciamo quanti anni ci vorranno, insomma, per non spargere anche vane speranze, una decina? Una decina d'anni, direi, dobbiamo prevedere. Allora, per chi ha delle artrosi o roba del genere bisogna avere un po' ancora di pazienza. Certamente. Senta, lasciamo il campo della medicina. Che altre applicazioni si possono immaginare per un materiale autoriparante come questo, che per di più è pure trasparente, ecco, dicevo, gomma trasparente, non so se questo era ricercato, ma la trasparenza, insomma, può far comodo. Certamente, una volta che avessimo capito quali sono effettivamente i meccanismi con cui questo materiale si autoripara, la tecnologia potrà essere estesa ad altre tipologie di materiali e quindi portare poi a materiali autoriparanti che possano essere utilizzati per monitor del computer, schermi dei telefoni, piuttosto che per pellicole protettive antigraffio. Pensiamo ad esempio alle visiere dei caschi, piuttosto che all'automobile che si graffia ogni volta che portiamo. Infatti io stavo pensando proprio alla carrozzeria, un giorno uno va a sbattere, però davvero sì. L'autoriparabilità è una specie di sogno. A essere sinceri, esistono già dei materiali che sono in grado di autoripararsi, ma richiedono nella maggior parte dei casi degli agenti esterni, vale a dire bisogna sottoporre il materiale danneggiato a calore piuttosto che luce o a una reazione chimica vera e propria. Ci sono i materiali autoriparanti che hanno al loro interno già sostanze chimiche che fanno da collante in caso di fratture. Certo. In questo caso invece no, è come se aveste inventato una specie di velcro molecolare, non so come dire, no? Unite le parti e restano semplicemente insieme. Va bene, grazie Laura Cipolla. Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori. Va bene, ci fermiamo qui, appuntamento a domani, buona serata.